lì si rompe. Chiedo asilo. Tu che hai litigato con la matematica tanti anni fa. Ormai si parla di quasi 40 anni fa, dalla prima elementare. Allora, dovresti entrare in una macchina del tempo, tornare bambino, poi entrare in un'altra macchina del tempo, tornare di nuovo al 2012 ma bambino, entrare in un aereo, andare a Tallinn, scendere dall'aereo e andare a scuola in Estonia. Ho capito, ma perché tutto questo? Perché da quest'anno in Estonia tutti i bambini dai 6 anni in su impareranno a programmare. A programmare cosa? Non dai 6 anni in su, cioè dai 6 anni cominci, poi vai avanti, 7, 8, certo. Continui, capito? Sì. Programmare. Programmare. Programmare cosa? Come cosa? Drago, programmare, scrivere in codice, PC, informatica. Drago, dai, sveglia! Ho capito, e cosa c'entro io in tutto questo? C'entri, perché uno come te, del tutto ignorante in matematica, in Estonia non va da nessuna parte. E quindi devo andare lì e imparare. Infatti non ho nessuna intenzione di andare in Estonia, tantomeno di... Ma se Drago non va in Estonia, l'Estonia verrà a Drago. Vedrai, Drago, vedrai. Che presto anche da noi diventerà obbligatorio imparare a programmare. Ho capito, però per i bambini, gli adulti mica possono prenderli e obbligarli a tornare a scuola, scusa. Per gente come te ci vorrebbero dei centri di rieducazione matematica tipo quelli della Cambogia di Pol Pot. Ma è perché? Presente? A Pol Pot piaceva la matematica? No, lui preferiva le colonne di teschi umani. Li usava come pallottoliere, no? Faceva... matematica, sì. Vabbè, ho capito. Però cosa serve programmare, capo? Ormai serve, Drago. Compri una scatoletta magica e devi solo metterci le dita sopra a caso. Questa è l'informatica adesso, una cosa da sindrome del tunnel carpale, l'unica cosa che... Drago, sai perché tu dici queste cose? Perché... Sei ignorante. Sì, vabbè, lo so, però lo sai che sapere di non sapere è fondamentale, lo diceva anche uno dell'antica Grecia. Ma chi uno? Credo Socrates. Socrates? Odotour. Ma cosa dici? Sì, Socrates, detto Odotour, grande centrocampista dell'antica Grecia, ha giocato anche nella Fiorentina. Però poi anche lui, anche se era ancora molto giovane, è morto. Socrates still trying to get the opening. Oh, Socrates! Oh, what a goal! È mio amico Socrates. Amigo Socrates, o dottor. A-E-I-O-U Socrates. Non riesci a fare solo un pezzettino di sta canzone. Devi fare tutte collegate. Anzi, se vuoi fare solo A-E-I, non puoi farlo di prima e fare mio amico Socrates. Socrateur. Chirosilo. Drago, ho scoperto cosa manca all'asilo. Lo so, manca il personale. Sì, anche, ma non solo. Manca una palestra attrezzata per fare ginnastica. Sì, anche, ma non solo. Manca una sala video. Sì, anche, ma non solo. Manca un frigo bar per noi due. Sì, quello manca in effetti. Manca, sì. Ma manca anche un popinator. Un popinator. No, Drago, per favore. Non so, ma dai, era troppo facile. Scusa, mi esci fuori con una parola mai sentita prima, che ricorda invece una parola assolutamente già sentita. Ma sentita da chi, Drago? Fammi piacere. Allora, il popinator è una macchinetta, anzi ripassiamo l'inglese e facciamocelo spiegare da chi l'ha inventato, perché è una cosa seria. The Popinator is a fully automated voice activated. Il Popinator è una macchina lancia popcorn completamente automatica e attivata dalla voce. Quando dici la parola pop, la macchina individua da dove viene il suono e ti lancia il popcorn proprio in bocca. Capito, Drago? Pop e tac! Un popcorn da masticare. Sì, ma è fantastico. Sì, ho capito. Drago, entusiasmati. Ma no, ma che entusiasmo. Ma sei sempre il solito mugugnone. Pop, tac! È inutile che dici tac. Pop. Noi non ce l'abbiamo il popinator. Ma pensa che bello sarebbe. Drago, un bel popinator. Puoi anche riempirlo di orsetti di gomma colorati, per esempio. I gummy bears. Gummy bearchen, si dice. Gummy bearchen. Sì, comunque diciamo la si tedesca. Può. Ma sì. Scusa, il peso di un gummy bearchen è superiore a quello di un popcorn. Certo, quindi, vero. Quindi non è detto che il popinator possa trasformarsi in gummy berchinator, perché lancerebbe l'orsetto di gomma con una forza insufficiente ad arrivare alla bocca di chi ha detto pop. Che poi tra l'altro non devi neanche dire pop, devi dire gummy berchen. Gummibärchen. Non arriva niente. Drago, il telefono! Drago! Sempre a me tocca. Pronto? Truent? Pronto, chi parla? Truent, a chi habla Manolito? Manolito? Chi cercava? E también soy el encaricado de la ambasada ecuadoreña de Londra para la protección del señor Juliano Assange. Giuliano Assange. Sì, buongiorno, buongiorno. Posso fare qualcosa per lei? Perché ho già parlato con Julian più volte dicendogli che... E signor, para chi? No. Io non comprendo, signor, comprendo nada. Sì, diamoci del tu, facciamo prima. Allora, ti chiami Manolito, no? Manolito. Sì. Cosa vuoi da me, Manolito? E también, signor, io tengo una protesta contro il signor Assange. E io cosa c'entro? No, usted es al asilo, no? Sì. E allora perché non ve lo beccate vosotros, el signor Assange? Ma perché gliel'ho detto, l'asilo è completo, qui c'è un problema. También l'embassata estaba completa. Estaba completa. Però el signor Assange se è imboscato adentro e ora Manolito sta 24 ore sobre 24. Siete días sobre siete días, sì, a vegliar al signor Assange in vece di tornare della sua famiglia. Non sì, vabbè. Ma che lingua parli, Manolito? Cioè, Ecuadore. Vabbè, senti, mi dispiace per la situazione, ma qui dall'Italia, poi figurati cosa possiamo fare. Questo asilo non è sicuro come l'ambasciata, quindi tanto vale che stia lì, no? Qui non vige il concetto di extraterritorialità, capito? Ho comprendito. Hai capito? Qui non vige il concetto di extraterritorialità, non vige qua. Non è vero, comprende nada, però Manolito chiede solo di tornare di sua famiglia nombrosa e bisognosa. Sì, ma non so cosa farci. Questa è una situazione intollerabile. Io tengo di fare la pulizia nella stanza del signor Assange, ma il signor Assange non si leva jamás del sofà, è sempre corregato a leggerlo di spaccio. Sempre, scusa Manolito, è sempre corregato. Ah, coricato che legge i dispacci. Vabbè, adesso vedrò di fare qualcosa, ma fatelo, dategli, non so, fatelo dormire. Favore, invece. Signor, per favore, signor, vosotros state la mia unica speranza. Ma vabbè, adesso faremo il possibile. Signora sa che mi chiama, che tiene hambre. Io le porto il pollo chicarrón e spero che sia tuffi. Ma il pollo chicharrón o chicarrón, come dice lei, non gli piace, me l'ha già detto al telefono che non ne può più. Cambiate dieta. Che se tuffi, se tuffi, ma si stufa sicuro. Tuffi. Pronto? Pronto? Pruento. Mancano 87 giorni alla fine del mondo. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Mica tanto però, feel fine. Tu ti senti così bene? Ah, adesso sì.